dicono che monta un elenco professionale, è vero? Egli monta lo stesso Echo che il prodotto mi pare dall'RF Limited, è lo stesso dell'S9, capito? Solo che non ho imparato a manovrarlo, perché a me sembrava basso, a te sembrava troppo forte, figurati. Vabbè, qua... niente... Bella. Solo che vabbè, adesso vediamo un po'. Se mi riescono poi su di mano, me lo prendo un 440. Eia, mi aspetta che provo, eh. Adesso ho inserito il talk back per sentirmi. Ti fa sentire l'eco. Hola? Hola? Così è leggero, mi pare. Ma è troppo leggero? Leggero. Guarda. Vedi un po'. Io la sento basso da me, troppo basso. Se lo metto a 3. Hola. Hola. Guarda, a 3. 3. Hola. Hola. A 4. 4. Aumenta anche le ripetizioni, non solo il volume. Poi vabbè, a 5. 5. Hola. Hola. Attento. Attento. Luca. Luca. Lo sento, ripete, non molto, lui va bene, non è che di prima faceva un po' caghe. Aspetta che ti faccio sordo. Luca. Prova, non puoi arrendere un altro po'. L'ho messo, vabbè, a massimo, comunque io sai cosa ci faccio con l'effetto eco? Ma l'attacco ai maroni, capito? Perché è la cosa più inutile di questo, di tutta la roba che era parecchio. Il bip classico. Mio. Questo mi pare però più basso di tonalità, appena. E hanno fatto una grande stronzata però, Luca, perché anche mettendo il talk back, cioè l'autoascolto, a zero, il bip si sente nell'apparato ed è anche forte, di notte dà fastidio, può dar fastidio a chi c'è in casa. Il bip è proprio un tono secco, eh. Ecco, metto tutto a zero. 4 watt, riportante mutta, va bene. Questo peraltro Luca, ha lo stesso display del Magnum 257, che sarebbe l'Albrecht 5008, che sarebbe il Geopix ITK. Ma tipo quello di Gianni? No, Gianni ha l'S 980 o 175, non mi ricordo. No, guarda, se c'è internet, guarda, Albrecht 5008, è piccolo, però è 400 canali, sempre MFM banda laterale, luce blu, c'è lo Smitter che è solo LCD, una gagadda. Se me lo ripeti piano io lo scrivo, CB? Allora, scrivi direttamente Luca, che è uguale, Magnum 257. 257 HP normale. Ah, l'estetica è uguale Luca, metti 257 normale. Ok. Allora, 257. Ma c'è il coso, cioè il digitale, giusto? Ehi, Jan. È piccolino quanto un FM500S di frontalino, meno spigoloso, e il bello che in macchina quello è pratico perché è meno largo, questo è molto largo, ma da me ci sta benissimo. Passa 1, 2, 3, 5 pomelli e 6 tasti, giusto? I tasti sono centrali. L'indicatore, adesso non mi ricordo le funzioni, Luca, perché è da 8 mesi che non lo vedo il mio, capito? È sempre in riparazione, ma me l'hanno spedito ieri, quindi deve arrivare. Quello dava 10 watt AM, 20 watt SSD reali, come qua sono reali 40, lì sono reali 20. E, vabbè, andava benino, niente da dire. Un po' rumoroso come ricevitore, prende le insegne al neon, i motorini che passano, da quel punto è allucinante. Questo è molto più silenzioso, sensibile ma silenzioso, dice Vittore. Una bella timbrica ricezione anche. Ma aspetta, il microfono è... c'ha l'eco nel microfono oppure è proprio incorporato nel baracchino? È nel baracchino, c'ha proprio una sua scheda eco. Qui peraltro dicono che è un eco digitale di alta qualità, lo puoi fare sia lento che... aspetta che te la faccio sentire. Sia lento che veloce, hola. Allora guarda. Adesso metto tutto a 3,5. Guarda, aspetta, te lo metto 4. Parto dal minimo, eh. Hola, hola, hola. Questo è un riverbero, eh? Prova. Prova. Adesso è a 3. Adesso a 4. Sto rallentando la ripetizione. 5. 6. 7. E poi lo metto direttamente a 10, va. Oh Luca. Ecco. Adesso a 10. Invece il volume è a 4. Prova. Prova. Ciucciù. Prova a dire ionico. Ionico. Ma devo alzare, aspetta. Ionico. No, aspetta. Ionico. Non parte la manetta, come mai? Proviamo un po' aumentare di velocità. Ionico. Ci siamo. Ionico. Lui dice coglioni. Che casino, non lo so comandare, pa. Comunque è inutile, ecco, te l'ho detto, infatti qua. Così è 3,5, tutte e due. Sì, ecco che ripetizione. Ma è forte comunque. Ma infatti lo spegniamo subito. E basta. Poi anche quello di Gianni è come potente. Ma faccela Gianni, Gianni ci sei, Gianni doppio room, ci sei. Ma su Facebook quello. Poi però è la 27, non c'è mai nessuno, è la 27, sta scadendo. Io su Facebook non ci vado, io vado solo in radio. Ah, ma io la già vado, vuoi dire se per esempio ogni tanto qualche messaggio lo mando, ma niente di che. Questa qua non ha parecchio veloce in più, allora vediamo, qui ce ne sono tanti, sembra, qui sto così, guarda, sembra un autoradio, carino comunque, ha un bel dissipatore dietro, vero, confermi. Ah, ma tu stai parlando del piccolo, sì, del 257, sì, c'è un dissipatore modesto, in proporzione all'apparato è grande il dissipatore. Aspetta un attimino, vediamo un po' cosa dice. Allora, aspetta. Lascia vedere. Allora, vediamo. Sì, qualcosa. Allora, aspetta. Aspetta 2 secondi. E B. Vediamo. Vabbè, i colpi sicuramente non ne prende. Ah, un gommino. Vaffanculo. Vabbè. Cioè. Quello non l'ha dato. Gli altri. Non dico. Ti ha dato questi cosi, attimo. Questi magnum. No. Aspetta. Un attimino, aspetta. Avanti. No, cosa ho fatto? Allora, lo stavo vendendo. No, quinto che lo sto qua. È uguale. Non ci credo. Allora, Intec Multicom 458 è uguale al tuo, Marconi. Come può essere? È uguale. Cioè, questo qua è un Intec, uguale. 5 pomelli, 6 tasti. Però è Intec Multicom 45485. Aspetta un attimo, Luca, ho fatto danno. Prima anziché toccare lei ho messo la potenza a manetta e ho sbagliato, devo rimettere 4 watt. Ora? 4 watt. Allora Luca, il Multicom 485 è stato il precursore, però a differenza dell'Albrecht 5008, che sarebbe il 257 Magnum, aveva una particolarità: tu spegnevi l'apparato, premendo un tasto lo riaccendevi e ritornava a 40 canali omologato. Invece il Magnum 257, una volta che lo modifichi, la modifica è evidente, capito? Invece quello, tanto che anche se era 400 canali, spegnevi, riaccendevi con un tasto e ritornava omologato. È positivo. Ascolta, non è che tu sei disposto, se c'è la scatto guarda se ci vuoi interessa, allora sono andato a farmi la posta della PayPal, tanto la macchina c'è via Pascoli, tanto mi devo di nuovo registrare su eBay, faccio una nuova registrazione. Così con la PayPal non ho nessun problema. Poi abbiamo detto che la fila te li ha bloccata, lo sai, perché c'è un giro di truffa di queste carte. E al momento sono bloccati, non possono fare niente. No, ma praticamente cos'è successo? Che hanno truffato con la tua carta o come? No, oh, devo fare un acquisto qualcosa, ma c'ho uno che l'ha fatto al Dunio, l'altro nel display me l'ha fatto questa mia amica dalla Germania, nel monitor del computer, meno male sono riuscito a comprarlo. Praticamente da 60 ne è venuto quasi 90 euro, 91 euro mi è venuto. Vabbè, niente, non mi interessa. Così gli ho consegnato il computer, gli ho formattato, ho fatto. Mi serve una batteria di un cellulare che qua a Santa di Costa diciamo quello, ma non è originale. Invece lì su internet costa 15 euro, spedizione gratuita, ma originale. Sì, ma ti serve ordinarla quindi. Certo, ti do soldi subito se tu lo fai, subito, ma lo ti riporto. Poi se la non mi carica, praticamente dobbiamo fare un altro ordine. E quello io a gennaio devo fare di tutto per fare una carta. Così non può rimanere a nessuno e mi arrangio da me. Devo prendere questo qua. Federica Flex, questo qua. Che sarebbe il Flex Samsung GT, praticamente è l'ingresso di alimentazione di questo computer, di questo telefono. Meno male si può attaccare perché ha USB, no? Ricarica USB il connettore. Allora io ne ho messo una del mio telefono più piccolo, l'ho appoggiata, però vado che carica. Mentre l'altra batteria sua, no? Inserisco il carica batteria e mi dà questo triangolo giallo, a quel punto è esclamativo. Secondo me è una batteria fottuta, perché il carica non c'ha niente. Ecco, ma quindi la posta P ce l'hai? Sì, ma non è proprio perciò la PayPal, come ho visto. Allora, una che non so, la posta P si può collegare a PayPal? Forse no, o forse sì. Quali siti sì, ma questo qua, no. Però che ho fatto praticamente l'acquisto, sono impiegato di là e mi hanno detto che non andava bene l'acquisto, mi hanno rimborsato dopo un mese, no, non è voglio fare di queste cose, Marco. Eia. Comunque ricordati che se c'è un problema tipo articolo sbagliato eccetera ti rimborsano sempre dopo un mese, almeno un mese ci vuole, non rimborsano mai subito. No, la batteria costa, aspetta, ti dico quanto costa. Quindi la vedo un attimino. Qui no, aspetta, 14 euro la batteria originale. pressione su Galaxy Note GT L70, costa quanto vicino a 99. Spese su edizione gratuita. Allora, ci va, da 17 dicembre la consegna, giovedì 19 dicembre, mi sa anche bene. Ehi, poi però è sempre più lunga, Luca. Anziché due giorni ce ne mette tre o quattro. Ascolta, io per caricare la mia scheda devo andare in banca. Allora la mattina, vabbè, mi alzo tardi e poi vado da mamma a trovarla. Poi posso ricaricare la scheda nel pomeriggio, capito? Aspetta un attimo, vediamo un po'. Se la tua email perché non me la ricordo più. Siccome sono fatti 50.000 messaggi. E di cazzo. Allora. Poi senti la cena, senti. Contatto un venditore sempre per il monitor. Sul sito ho 60 euro. No, la messaggio mi costava, a me mi stava anche bene. L'ho contatto tramite telefonicamente, perché un altro tipo, aspetta un attimo, mi ha detto dimmi quanto mi viene, se me lo spedisce con contrassegno, mi manda la cifra, mi fa 105 euro, cazzo, cioè tu fatti il conto, 80 euro di monitor più 25 euro di contrassegno. Ma te la, cioè, la consegna. E io ho detto, no, non lo voglio più, non mi voglio mai andare alla fine, non mi conviene più, perché guadagno che guadagno io sto prendendo tu. Ma io so quanto siamo per la mandata, me l'ha spedito. Sono cosa ho fatto io, mi è arrivato SDA, non lo puro, non lo ritiro. Ma da lì, io ce l'ho proprio pagato qualcosa in meno, vabbè. Ma così, 15 euro in meno, ma sono rimasto in tasca, non è invece di darli a lui. Ah, e quanto era grande questo schermo per pagare 25 euro di spedizione? Da 15 e 6, 15 pollici. Ma da fuori arrivava, dall'Italia? Dall'Italia. E allora è un ladro lui, Luca, perché mi pare i corrieri, per esempio, SDA, mi pare che sia 10 euro fino a 15 kg, 14 kg. All'anima, a 25 euro, vabbè c'è il contrassegno, c'è la maggiorazione, ma 25 euro mi sembra un furto proprio. Comunque anche altri venditori sono così cari, Per esempio c'è un venditore che mi aveva spedito una cosa, elettromeccanica, 20 euro la spedizione, una cosa, una roba da matti, 20 euro di spedizione. Quando Bartolini addirittura impara a pagare 5 euro per i pacchetti piccoli. Cosa? Io non ti trovo. Se mi dai la tua email. Ah no, no. Aspetta, no, qua non c'è, no. Vediamo. I folli CD, no. Come cazzo? No. Ah, se mi dai la tua email ti invio del coso. Ehi Luca, però fai una cosa, mettitela nella rubrica, e se no te la dimenticherai sempre. Manda. Allora, pronto a scrivere. Pistis, chiocciola, infinito.it. Ripeto, Pistis, chiocciola, infinito.it. K positivo, però mettila nella rubrica. Quando devi scrivere un messaggio, il mio indirizzo fai aggiungere alla rubrica. Ma cazzo, io allora, inserisci, condividi, annulla, la rubrica qua. Annulla. Allora, aspetta. Vedi, se n'è andato via. Uffa, Pistis, chiocciola, libero, giusto, libero. infinito.it. E ti arriva cosa sta dentro? Poi vediamo un po'. Allora, invia. Invia comunque. Allora, pisti, schiuccia, ok. Guarda l'inviato. Dice, hai contatti? Vediamo un po'. Ecco qua, ma sono i contatti. E dici i contatti, vediamo. Aspetta. Non dovrebbe dare. Boh, non lo so. Ma qua se ne va più, vediamo. Sì, stiamo facendo i contatti, ci sei. Buono, buono. Sì, mi pare simile a quello, tipo aggiungi a lista contatti o inserisci a lista contatti. Cos'è Outlook? Outlook, sì. Meia, è il mio. Quell'indirizzo che ti ho dato è lo stesso indirizzo che mi sono fatto nel 2000, quando ho comprato il primo computer. E come connessione telefonica avevo col modem, avevo scelto infinito, boh, me l'ha scelto il tecnico. Bene, bene. Guarda, c'è pure Marco lì. Cioè, per me è comprato quello che porto i soldi. Cioè, ci sono anche 2 euro di ricarica, se non sbaglio, non c'è problema. Poi mi sa fare la spesa. Perché tanto poi c'è già a pagare lì. Meglio Luca, guarda, se riesco vado domani. Oggi è giovedì, devo andare per forza venerdì, se no poi c'è sabato e domenica è chiusa la banca. Vado domani all'ora di pranzo. Ok, che apre dalle 14.45 alle 15.45 la banca, c'ho un'ora di tempo, a voglia. Allora ti volevo dire, comunque io che ho la carta prepagata, mi vorrei fare post pay lo stesso, perché nel caso eccezionale che uno dei venditori affidabili, io compro solo degli affidabili per i baracchini, nel caso che un venditore non accetti PayPal, glielo pago con post pay. Io lo faccio con la mia PayPal, praticamente appoggio la mia post pay, scusa la PayPal. Però a secondo dei siti non te l'accettano, boh, non lo so. Comunque te ne fanno dei soldi se fai questo passaggio, qualcosa di più te la rubano. Dimmi che rubano i soldi, cioè imbrogliano. No, non è che ti imbrogliano. Facendo questi passaggi qua, cioè per quelle 2-3 volte diventi freddo, capito? Eia, vabbè, comunque. Non mi piaceva la post pay, però me la farò per utilità future. Va bene, allora vediamo un po'. Aspetta, perché scende porco Giuda? Ecco, adesso è meglio. Comunque, ma per sicurezza, perché io non, allora ciò usi, allora. Ok, salva, ecco qua, ho fatto la cartella anche, ecco qua, e l'ho messa qua, così sono sicuro di non perderla, se mi serve la cremina vado qua e ci vado a occhi chiusi, la curva nel collo, mi vedete che è arrivata comunque, Marco lì, ho dato un'occhiata, che vai, non... Da rossa, da azzurro, azzurro, no, azzurro. Adesso voglio vedere anche se il venditore è affidabile, quanti feedback negativi ha e quanti neutri ha, perché ci sono certi che sono degli animali, c'è gente che in un anno c'ha tipo 30 negativi, 40, 50 neutri, quelli sono lonfi, perché non sono affidabili. Poi ci sono certi venditori che appena gli dai un feedback negativo con la giusta spiegazione, lui risponde in malo modo, lei che non sa usare, vada a scuola, roba del genere, c'è gente esaurita su eBay. Allora qua c'è scritto venditore affidabilità top 90 sì. Vabbè, 16, e guardate che non sia di quelli che c'hanno, c'è gente che c'ha 98%, 97,5, mi. Quelli sono lonfi. Questi qua sono lonfi? No, dico, c'è gente che ha appunto 98% di affidabilità, poi ne ho visto una addirittura 97,5%, quelli sono disastrosi, gente che fa le spedizioni male o che le fa dopo un mese, capito? Quelli sono da evitare. Ma guarda, il flex 99,4%, venditore affidabilità top, sarà lo stesso, comunque ti mando anche questo, così lo vedi cos'è, coppia, aspetta, la coppia, ok, vedi, si è rimasto memorizzato, ok, si è memorizzato, quindi mi date questo qua, invia, quattro inviato, ma quindi siete arrivato sia uno che l'altro, allora uno è flex e l'altro è anche la batteria. Sul tempo ho pegato un uovo, praticamente si è caduto in terra mentre caricava. Poi io l'ho provato a accendere, non so pure il resto, io gli ho detto quello che ha, poi se ha altri problemi sono fuori suoi. Eia, adesso vado a dare un'occhiata alla posta, dai, ritorna subito. E poi prova a chiamare a vedere se c'è qualcuno che vuole entrare. Però qui su qua. Buonasera, Capri 2. Allora, ciao Gianni. Sei fortissimo di radio. Il segnale non te lo posso dare perché questo smitter non è affidabile. Qua arrivi 5, ma dovresti essere almeno a Santiago 7. Di solito arrivi così con l'apparato serio, capito? Comunque la radio è sublime. Di solito lo danno anche al 100%. quindi vari abbastanza negativi e abbastanza neutri, quindi anche quello è un po' passicione, ma circa nel 100%, lo sai, al limite ci hanno, che ne so, un negativo solo in tutto l'anno, un paio di neutri al limite. Questi sono abbastanza casinisti. E d'altronde, oh Luca, ho visto che chi vende molta roba, tipo batterie, tutta questa roba qua, è chiaro che questo uno ha 11.000 vendite, l'altro mi pare non so se ne abbia 23.000, quindi più roba vende più errori può fare, capito? O sbagliare indirizzo oppure sbagliare articolo, ma io non voglio pinacere, tocchiamo ferro, tocchiamoci le balle e poi lo ordiniamo. L'altra inserzione la sto guardando adesso e la sto appena aprendo, quindi gli do un'occhiatina e poi torno. Eccomi qua, ciucciù, sì, ho visto l'altro annuncio, Rovereto, si trova Rovereto in Italia, venditore, vabbè, anche lui c'ha Rossi e Neutri, però ho visto uno che l'ha comprato da poco ed era soddisfatto, l'ho visto sui commenti di feedback. E tu sei più esperto, dimmi che adesso dove andare a vedere, no? Comunque appena è già la faccio la PayPal, così sono tranquillo. Mi faccio una nuova registrazione, una nuova email e via. Vuoi fare una PayPal? In che senso? Vuoi fare proprio la carta PayPal? Sì, sì. No, molto male. Meglio la prepagata, la carta di credito, perché se tu al di fuori di eBay vuoi comprare da un negozio online, un negozio, quello accetta carta di credito, tu puoi usare la carta di credito. Se uno accetta PayPal, tu paghi con PayPal dove c'è collegata la carta. Se uno vuole PostePay, ce l'hai già. Sì, vabbè, questa è prepagata. È meglio essere versatili comunque. Va bene, io adesso aspetta che faccio i conti, vediamo se ci arrivo, perché sono circa una trentina di euro di roba, sì. Uno è 15 e tanti, l'altro è 14 e tanti. Sì, ci dovrei arrivare. No, tu usa solo la batteria adesso, è la prova che devo fare colpo sia la batteria, capito? Ah, solo la batteria, va bene, allora come vuoi. Va bene, adesso controllo piuttosto quanto ci è rimasto sulla scheda, se ci è rimasta roba. Io mando un messaggio e mi dice quanto ci è rimasto. E avevamo speso i soldi, ci erano rimasti pochi euro, adesso do un'occhiata, mando il messaggio. Comunque Sassari è sempre una città, e resterà una città di merda, perché è allucinante, le cose più banali non ce le ha, e devo sempre ordinare dai eBay. Ma questo qua io dai. Ecco, inviato. Adesso dovrebbe arrivare la conferma, si arriva subito. Capito Luca? Qua metti saldo e ti arriva. Aspetta, ti dico subito se c'è credito. Saldo 8 euro e 81 euro, capito? C'è rimasto 8 euro e 81 sulla prepagata, quindi sono un po' troppo pochi. La quattro euro vado bene. Ti stavo dicendo, Sassari è un posto allucinante. Allora, ho regalato i miei cacciaviti anti-induttivi a un amico. Io sono andato al GBC a ricomprarli perché li vende lui, cioè online li vendono 5,90. Il problema è che se li compri online devi pagare 10 euro di spedizione ed è una pazzia per una cosa da 5,90. Mi ha detto che dovevano arrivare, allora due mesi fa mi ha detto che dovevano arrivare il 25, dopo il 25 novembre, no? Ho aspettato. Cosa mi ha detto? No, non arrivano il 15 gennaio, no? Quindi io dovrei aspettare mesi senza cacciaviti, ma li stavo per dire, ecco, quando arrivano te li ciacchi in culo. (Ride) No, è allucinante, dunque io sono passato mesi fa, avete cacciaviti induttivi, quelli a 5,90 bianco ghiaccio economici, devono arrivare, poi ripasso e devono arrivare i 25, adesso mi dice che devono arrivare i 14, poi passerò al 4, dopo il 14 gennaio e dirà che ancora non sono arrivati. È una cosa incredibile. Adesso vi faccio un paragone, tu sai cos'è il cavo Super VHS per le telecamere? Il cavo Super VHS per le telecamere, oppure video registratori Super VHS. Tu a cui sei un bel forse, ti attivo un tappio l'RFGain, aspetta. Non ti capisco, arrivi distorto, ma sto cazzo di maracchino, mamma mia, parla, rifai passaggio, scusami. No, se vuoi abbasso il mic again. Allora ti spiego, il cavo Super VHS è un cavo video specifico per certe cose. Quando nel 2000 abbiamo preso la telecamera 8 mm high band, che sarebbe come la Super VHS, sono andato a cercare questo cavetto, che doveva essere una cosa comune, l'ho cercato in tutta Sassari nel 2000, e in tutta Sassari non avevano questo fottuto cavetto, una cosa allucinante. Allora l'ho ordinato da De Longo e non è mai arrivato, e poi vabbè, l'ho trovato in tempi più recenti da Ocean, che ne avevano così tanti che te li tiravano dietro, capito? Adesso è una cosa comune, lo trovi dappertutto, ma all'epoca era una cosa incredibile. E pensa che questo cavetto esisteva già negli anni 80. Sì, ma dico, l'ho trovato molto tempo dopo da Ocean. Sì, vabbè, comunque da si qua si trova, ma no, assai, eh. Allora, Marco lì, io ho chiamato a Rete 1, dove c'è il corso, ok? Dunque, la batteria mi ha detto che dovevo ordinarla, la batteria, 19 euro costa, non originale, capito? Sempre la link, ma non originale. Cioè, scusa, vabbè, tanto vale che ne spendo 16, 16, 17, ma l'originale da internet. È lo stesso per la prima digitale che abbiamo avuto, fotocamera, l'abbiamo presa nel 2000, cerchiamo la batteria Sassari, no, non si trova più, non esiste, invece vado su internet e esiste, va benissimo, infatti l'ho presa da internet, costava anche pochi soldi, non era originale, però costava poco. E vabbè, comunque qua se costa, cioè, ma adesso me la faceva fare, dicevo vero, non originale, quindi la barri. Qua hanno la roba col contagocce e hanno roba solo che si può vendere in poco tempo, capito? È allucinante, io non quello che non c'è così, quello che non c'è il cavo. Naturalmente poi adesso i cacciaviti, ovviamente, gli anti-induttivi, dove li ho trovati? Li ho trovati da un negozio eBay, anziché 5,90 euro comprati a Sassari costano 2,80 più 5 euro, totale 7,80 euro, anziché 5,90 7,80, ma almeno mi arrivano, porco Giuda. Aspetta, due secondi, Marco lì, ma tu hai già mangiato? No, io mangerò alle 10:30, 11. Un messaggio, aspetta, cavolo, non si è fatto Gianni, Ehi, stava guardando la televisione. Vabbè, tanto dice sempre, non c'è mai nessuno, ma ragione. Infatti ho chiesto di te e di pomato che avevi questi problemi a casa. Comunque Marco lì, fammi sapere, dai. Provo ad accusarla. Poi se bisogna fare anche l'ordine dell'altro. Tiro il suo, Dio, non c'è problema, ti dirò subito, ce li ho. Poi già sborsa lì. Poi se non mi assolvi il telefono nel bene, non so se ti conviene, un telefono che costa quello, praticamente di quelli grandetti, touchscreen, bello, ma telefono, non so se ti conviene pagarmi, questo, poi se non mi paga io carico a battere, c'ho un mio che è uguale e me lo uso io al telefono, lo resetto e me lo uso io. Eia, però Luca, queste persone perché non ti danno i soldi prima per ordinare il pezzo? È allucinante la gente. Capito Luca, perché i soldi non li danno mai prima? Vabbè, comunque tu adesso come mi fai, mi confermi l'ordine, la chiamo, faccio dei soldi. Eia, no, perché io se io ti portassi un telefono rotto, ti direi Luca, quando è il pezzo? I soldi, ordinalo. Questi prima ti fanno aggiustare la roba, poi i soldi non le danno. Vabbè, io sembro l'unico che paga subito i debiti. Ma per dire, certo. Vedi, adesso l'altra volta tu mi hai comprato quel display famoso di quella PlayStation, c'è ancora qua la PlayStation, ma dopo tutto mi ha rimborsato solo i soldi. Adesso ma faccio qui i soldi per dare a te, se no io avrei fatto tutte pure con te, ma ti rendi conto, c'è cose da pazzi. Ma la prossima volta io i soldi ce li ho, adesso non ci sono problemi, ho i soldi che ho, mi sono guadagnato, ci sono computer. Poi ti ripeto, se lì non può pagare il telefono non le prende più. Io ho un tot di tempo e poi è fregata, ma io penso che non sia una persona imbecille, per quei pochi euro non si ritira il telefono. Vabbè, però Luca, io ti ho detto, le hai detto che il pezzo costa tot, perché lì non ti ha dato i soldi se il pezzo costa tot? Sì, perché gli ho detto io a gennaio, io non sapevo dove sbattere la testa, quando io sono andato a fare la PayPal, no? Lì in via Pasqua, mi hanno detto che sono bloccate. Allora l'ho chiamato e gli ho detto ci vuole tot, lei mi fa vabbè non ci sono problemi, mi ha detto che per i soldi mi ha detto io li porto da questa sua amica, che questa amica in comune che abbiamo, no? Mi ha fatto guardare questo cellulare, li porto da lì, che è una parrucchiera questa, no? Lavora in casa, ci abbiamo messo a posto un po' con un phone, un phone da stiro. E poi c'era questa ragazza che era sua, ma trova, lei ha un problema al telefono, non l'ha fatta avere tramite lei. Comunque gli sto prendendo poco di manodopera, ma siamo in affutti, io sto così per fare qualcosina Marco lì, meglio lui si venuta. Quello sicuramente. Però i debiti si pagano, soprattutto, e poi no, non ci contano che la roba non la vedono più. Per esempio questa PlayStation, è possibile che uno preferisca rinunciare alla PlayStation per non pagare, che so, 15 euro di ricambio? Allora usatela tu Luca, se non ne richiedono più tu non ne dai più. Siamo in vostro, allora il problema sai cosa è? Il problema è che non comanda, sicuramente la colpa che ha preso ha fatto danno anche a quel flex che c'è dentro a cambiare, flat, o che si diciamo, e la sostituzione anche quello, adesso vediamo, che cazzo è sta pronuncia? E niente, adesso aspetto, insomma la spedisco a questa mia amica Germania che il filo ce l'ha uguale, se la usa per pezzi, quindi un maledro, carica batteria e tutto gli spedisco, tanto che lì me ne ha fatto regali, e ora ne posso anche regalare benissimo, non interessa, quindi un maledro, si è comportato male, dice lei adesso l'altro mese, siamo già a dicembre, adesso però non ho pagato il display, meno male, sono uguale. E purtroppo i clienti sono brutte bestie. E d'altronde Luca, il laboratorio fa così, i laboratori di riparazione, no? Se non paghi non ne vedi più il telefono o il computer, finché non paghi il computer non te ne ridanno, è semplice. Fatti di me, però il lavoro l'ho fatto, hanno perso tempo, capito? La stessa cosa vuole per me, infatti tu non la rubi, ma la sussi. Poi se l'ha detto, quando mi ha dato le 30 euro del mio display, no? Perché costa trovare la cifra lì, una trentina di euro, con 25 soldi, dico, vabbè non me la futti, comunque sono fatto dei soldi miei. Mi fa, mi ha detto, c'è il lavoro di fare, bisogna comprare un altro pezzo. Mi fa, beh, comprare i soldi tuoi, avevo i soldi che ti ho dato io adesso, no, non i soldi, a dicembre. Mi ha detto, non si sa che giorno di dicembre. Guarda la papua, io ero a casa di questa mia amica di punti, mi ha chiamato, ma lui me l'ha compiuta, no? Venuta, mi ha preso, guarda, che era sua, beh, ti ho trovato lì ai punti, ciao Lu, guarda moglie, una figliola, hai capito? È andato dritto. Le vedi, lui guarda ancora l'ho ritirato, nulla. Adesso la PlayStation, non solo, c'ho la PlayStation e un tablet. Che mi devi anche ordinare, Marco lì. Mi ha detto, ti mando il link, ti mando. Guarda, ti sto ingaggiando la vita. Veramente qua. La moglie ancora me la giro io piano piano, se ne riesco, se no qui è un culo comodo. Praticamente con il suo tablet c'ha il touch screen rotto, spaccato. Eia. Poi Luca, se non ti ricordi come si fa a fare l'acconto, oppure vabbè, tu ti prendi la PayPal, quindi non c'è bisogno di collegare la carta, perché se ti avrei fatto vedere come si collega la carta a PayPal, capito? È una fesseria, mi pare c'è la voce tipo aggiungi carta, tu metti i dati della carta, i numeri davanti, il codice di sicurezza, devi mettere il nome dell'intestatario della carta, tutto lì, niente che non si possa risolvere. Ma sarebbe la voce? Allora, io adesso non ce l'ho davanti, però se non sbaglio c'è aggiungi carta, una cosa del genere, o registra carta, una cosa del genere. Capito? Però serve per le carte di credito, quello, per aggiungere una carta di credito. Allora io una volta che faccio acquista, qui sono fottuto, e poi se il pagamento non va bene, questi mi scassano le palle. Marcoli. Allora io per adesso problemi su eBay non ne ho mai avuti, io ho comprato solo 71 oggetti e mi hanno sempre dato voto positivo, naturalmente dice pagamento supersonico, perché io nell'istante che compro l'oggetto lo pago subito all'istante, a meno che non debba richiedere il totale. Per esempio se prendi 2 o 3 oggetti, poi il venditore ti fa il totale. Per esempio se nella voce è prevista ogni oggetto aggiuntivo, che ne so, gratis, allora si paga solo una spedizione, insomma. Invece ci sono dei ladri che se tu compri 2 oggetti o 3 ti fanno pagare 2 o 3 spedizioni. Quelli sono scemi. Di solito se compri 2 o 3 oggetti dal venditore o più oggetti ti fanno un'unica spedizione, al limite ti dicono che so ogni oggetto aggiuntivo 50 centesimi per dire, no? Tu richiedi il totale, lui ti manda una fattura, un coso col totale e paghi tutto assieme. Come ripeto, lo faccio a questo mio amico, però i vari siti non accettavo quel tipo di pagamento, capito Marco lì? Io sono registrato, ho tutti i dati, lancio le mail, posso accedere qua ai mail, però non so se con quella carta lo fa fare, boh. Cioè non so i passaggi, io una volta che capisco i passaggi, se mi fa comprare è bene, sono pazienza. Ah, poi una volta mi avevi detto che mi pare avevi contattato in privato il venditore al di fuori di eBay, cioè senza passare dal sistema, diciamo, di comunicazione che ha eBay. Quello non va mai fatto, Luca, mai fatto, perché eBay, per avere la trasparenza assoluta sia per tutelare te che il venditore, devi contattare il venditore tramite il form, diciamo, tramite le voci che trovi su eBay. Non bisogna mai mandare un'email privata, perché è una cosa, diciamo, considerata grave, capito? Non bisogna prendere accordi privati o accordi di vendita diversi da quelli indicati. Cioè se lui ti dice te lo spedisco con, per esempio, con carta di credito, tu devi pagare carta di credito, non puoi per esempio chiedere spediscimelo contrassegno o roba del genere. Bisogna usare, seguire tutti i metodi di pagamento che ti dice il venditore, perché sennò poi succedono casini, ti segnalano eBay, e poi c'è il rischio di essere buttati fuori, capito? Non lo so. Oh, yeah. Che casino. Diciamo che io quello là l'ho contattato tramite fuori da eBay, poi mi ha mandato un link da email, l'ho contattato telefonicamente, mi ha mandato questo link sul mio, sulla mia posta del suo, del loro negozio, mi ha dato questo codice, mi sono registrato, mi ha dato questo codice, praticamente ho fatto l'acquisto di quel, di quel LCD del, del computer, no? E niente, meno male. Un casino, adesso questi LCD non sono più, non li fanno più a LED, sono a lampada. Praticamente in più ti mettono questo cavetto per modificarli, a farli funzionare a lampada. Quel cavetto lì costa la bellezza di, adesso se non mi ricordo male, 17-18 euro, un cavo di niente, un cavo, un flat, no? Sottile, sottile. Se quello che piega di fare lo rovini, lì vuole piegato dietro, dietro, del monitor, no? Ma comunque, sono stata la grande vacuità, perché anche come PC l'ha portato con un monitor rotto, tante la rotta, tante l'ho riparata, l'ho tutto smontato, cambiato parte, mi ha fatto un lavoro, un mega lavoro, per una miseria. Io sto per guadagnare qualcosina, insomma quello era un lavoro a non meno di 100 euro. Eia. Il flat cable o cable, detto come si scrive, flat cable, sì. Ti volevo dire, Luca, che c'è su eBay anche gente che non sa comprare, perché diciamo che devi essere un po' elastico. C'è gente, no, che magari il venditore gli dice consegna in 2-3 giorni, no? L'oggetto magari gli arriva in 5 giorni per colpa delle poste e gli mettono feedback negativo, non si fa così. Devi anche capire che le poste o i corrieri, cioè il venditore non è responsabile per i corrieri che fanno cavolate o per le poste. E ho letto commenti del genere, cioè il coso è arrivato in 5 giorni anziché in 2 come previsto, quello no, non esiste. L'arrivo non è prevedibile, capito, l'arrivo della merce, quindi bisogna sapere anche trattare col venditore, capito, essere un po' elastico, comprendere, certo che se il venditore fa delle porcate è giusto segnalarlo col feedback o negativo oppure neutro. Chissà quelli da quel monitor quanto hanno guadagnato, almeno quel monitor avevano pagato 20 euro, 15 euro, e se avevano incassato buoni buoni 50 euro pubiti, senza fare niente. Ok, che ore sono? Allora, alle 11 devo uscire, sono le 10 e mezza passate, quasi quasi vado a mangiare una cavolata, mi mangio una mozzarella, oppure vabbè una cosetta veloce col pane, dai, e poi esco, vado a prostitute. Bene, se non la paghi vengo pure io. Ui ui, no, stiamo andando a controllare un luogo, vabbè c'è questo amico che deve controllare un luogo, è il suo lavoro, e io vado da lì, poi compagnia lì, tanto a caso non ci faccio niente, sono solo, ok, cosa ti volevo dire, vabbè, che eBay è un posto dove si trova un po' di tutto, bisogna solo sapere trattare con venditore, essere onesti, insomma. Oh, poi ci sono i venditori, Luca, che non te ne dico, ladri, uno gli ha messo come il feedback è rosso, no, gli ha scritto ladro, ladro, ladro, ladro, ladro, 5 volte, l'ha scritto 5-6 volte. Vabbè, io fregatore non l'ho mai preso, Gianni sì, guarda, su quei anni fa ho fatto l'acquisto di questi due apparecchi, uno per Salvatore, ma presi stracciati proprio. Erano due galaxy, certo, ecco. Cazzo, non hanno preso l'inculata, questi galaxy devono essere gli arbari che hanno preso umidità, dice, dentro lo facciamo lo schifo, di più. E hanno appunto 200 euro a lui e 200 euro a Salvatore. Purtroppo Luca, bisogna pensare che a presi stracciati c'è sempre qualcosa sotto, a meno che non hai una botta di culo che trovi un apparecchio ben messo a prezzi stracciati. Comunque ho visto che la gente tende a salire come prezzo, baracchino anche degli anni fine 80 inizi 90 te lo fanno pagare a prezzo pieno. Addirittura ho letto di uno che sta vendendo un Major, quello con l'effetto eco, un Major Eco, così si chiama, che mi pare sia degli anni 80, metà anni 80, 450 euro, ma tu sei scemo, io volevo dire, tu sei scemo, con la scusa che è un apparecchio vintage, adesso si dice così, vintage, la roba vecchia la chiamano vintage, 450 euro, ma non te ne esce da mezzo, 450 euro ti viene un Kenwood molto più nuovo, molto più avanzato che un volgare baracchino con l'eco. Vabbè, se li fanno pari questi apparecchi. Intanto quando li hai tanti cosa ne fai? Non li puoi usare, ma ok, hai la stessa, come ce l'ha Claudio, ce l'ha adesso Antonio Antonio, eccetera eccetera. Ma quella fine non mi fai nulla. Mi piace a tutti, devo avere tanti alimentatori. Sono attività ad esempio, quindi che altra cosa. E niente, vabbè, comunque. Io avevo un apparecchio, ma quello l'avevo dato, l'avevo dato a, l'ho fatto quadrato, un Royce, no? Bello, l'avevo messo a posto, bello lucidato, ma nuovo, cioè lui in vetrina. E che hanno mai fatto questo che sto usando adesso, questo Typhoon? No, veramente va un apparecchio da vetrina, veramente. Ci ho messo l'anima, metterlo a posto, cazzo di apparecchio. Poi ho visto anche gente su eBay vendere l'Alan 48, no? A 400 euro. Però nota bene, non Alan 48 elaborati con Colt, effetto eco, no, Alan 48 normali, vecchi, cioè vecchi, 400 euro. E la cosa peggiore è che c'è gente che se li compra, perché quelli mettono la descrizione, apparato, super, il più conosciuto dall'86 a oggi, e cioè ci sono dei fessi che se lo comprano, capito? Un Alan 48 normale, senza modifiche. Allora, no vabbè, 400 euro non esagerare, ma 200 sì, 250. No Luca, non esiste, io. L'Alan 48, tutti ne fanno mito, ma è un cazzo di apparecchio, scusando il termine anche per chi ascolta. L'Alan 48 è come un FM500S, è un apparecchio del cavolo che solo perché era modificabile, come del resto molti, ma molti altri apparati, ne hanno fatto un mito, ma è un mito, non so di che parte, un volgare 40 grammi omologato, come tanti ce ne sono stati. Guarda, tu puoi modificare con le modifiche del 48 tanti altri apparati, addirittura tipo l'FM500S, il 148XX, tanti altri apparati. Io se compro un 48 usato, cosa ti posso dare? Ti posso dare 50 euro, ti posso dare per un baracchino vecchio che ne so di 20 anni, di 25 anni, ma non di più. Infatti. Ma come ci sono per farseli modificare, capito? Quelli più vecchi sono più dico più buoni da modificare, anche se fuori di gara. Sì, il 48 vecchio, vabbè, Allora, componenti Clark, comunque ricordati che se tu guardi il negozio Delta One Shop, ci sono anche i video su YouTube, Delta One Shop, che è scritto Delta One Shop, modifica tranquillamente, mi pare, anche i 48 nuovi, quelli SMD. Questi SMD, l'importante è che funzioni correttamente l'apparato, poi ci puoi mettere dentro tutto quello che vuoi. Posso, ma io, Marco lì, guarda, io volevo modificare questo qua, sono sincero, mi hanno chiesto circa 180-200 euro, cazzo, permette, ma se l'accordo, a fare l'effetto elicottero, è un bip da modificare, stiamo scherzando. A me devi partire qua perché non mi interessa, andando male mi compro un 747, si trovano ancora, no? E niente, no, non faccio così e buonanotte, non ce ne butto su di così. Ahia, poi io francamente, per esempio, piuttosto di spendere da questi laboratori 450 euro una Alan 48, so che c'è il doppio modulatore eccetera, no? Io per 329 ho preso questo che c'ha 400 canali, bande laterali, quello, ricordate che l'Alan 48 è solo MFM, questo c'ha bande laterali, c'ha un sacco di cose, per dire, esce fortissimo in modulazione, c'ha 40 watt modulati, diciamo che poi non prende colpi, conta che il 48 era un cestino di apparato come c'erano tanti, quindi splatter ne prendevano a finire, questo non ne prende, questo è come i superstar che hai tu, mi Tornado, superstar, quelli sono molto migliori come ricevitori. E vabbè, ma comunque alla fine sono baracchini che purtroppo prendono sempre colpi. Poi ci sono quelli che magari riescono a mettere un filtro. Qual è il password? Che cazzo di password? Beh. Ok. Vabbè, comunque. No, quello che hai preso tu è... sicuramente i colpi non le prende. Ma ha il microfono normale, giusto? Con l'eco, come è tutto nerd, c'è la scheda dentro. Ma colpi non le prendono. Allora, questo apparecchio come selettività è come il Superstar, come il Tornado, come il Superstar, il Pluto, uguale, non cambia niente. Diciamo che... Allora, ti faccio un paragone. Io ho avuto negli anni 80 il Multimode 3, 200 canali, MFM, LSB, eccetera. Ecco, con quello, quando prendevi splatter da stazioni forti, non potevi modulare, ti faceva abbattimento zero. Con questo, anche se una persona è forte, diciamo che senti un pochino di suono, ma riesci a modulare, capito? Riesci a modulare. Cosa che non potevi fare con Multimode 3 perché prendevi abbattimento zero, era terribile quella parete. Adesso lo potresti usare tranquillamente perché sugli altri canali non c'è nessuno, tutto lì, ecco. Comunque, vabbè, buon ricevitore questo. Ecco, questo ricevitore in AM è abbastanza silenzioso, invece il Magnum 257 è terribile, prende il rumore dei motorini, dell'insegna neon, di qualsiasi cosa elettrica. Da quel punto è terrificante come rumorosità, ecco, tutto lì. Però in SSB, ma Luca, il Magnum 257 in SSB è un bijou. Che vostro centro è piccolo ma sincero, Eia, allora, quello aveva i finali MOSFET ormai, quindi anche se avevi 10 watt lo portavi da 4 a 10, la modulazione era sempre chiara. Ah, ti volevo dire Luca, questo microfono che ho adesso di serie, in realtà non è un microfono normale, perché dentro è preamplificato, prende l'alimentazione dall'apparato, dentro c'è un trimmer, che se vuoi amplificare la radio lo porti a manetta, però non c'è bisogno perché già così esce abbastanza bene, capito? I fissati lo metto la manetta, ma poi rischi di avere distorsioni perché tra preamplificato al massimo, il tubo compresso, il top gun moduletto, rischi di avere di uscire più male. Ma aspetta, prendo l'alimentazione da dentro per poterti amplificare il microfono, giusto? esatto, nel microfono c'è un circuitino, un preamplificatore. Ah, questo ha due ingressi il microfono, Luca, c'ha quella sinistra che ha sei poli e poi a destra li puoi mettere i microfoni normali a quattro poli tipo il tuo Tornado, oppure puoi mettere preamplificati che abbiano l'attacco classico dei Superstar. Ho capito, no, guarda, bello, me lo va parecchio. Però mi piace più il Magnum, quello che c'ha Gianni, come estetica. Anche quello è molto bello, però costa troppo, Luca. Costa 3,29, quello costava 3,90 in pare. Dipende da chi lo vende, i più ladri lo fanno pagare anche 415 in pare. No, comunque ha fatto un bel acquisto, hai intenzione di metterlo in macchina? Sì, tutte e due, quando capita lo metto in macchina, perché già venuto è cazzo. Io non ho mangiato, devo uscire. Lu, ti devo salutare in fretta che è arrivato quel tipo. Sì, ciao, poi ciao per le marcoli, ti vedo la giornata. Ok, ciao ciao. Ciao Luca, ciao, buonasera.